Brussellando, viaggio tra i libri, le musiche, le poesie, l'arte, l'agenda culturale italiana ed europea. Presentata da Radio Alma e condotta in studio da Mary D. Con la partecipazione straordinaria di Georges Laurent. Regia di Danny M. Cari amiche, cari amici, bentrovati, benvenuti nuovamente qui a Brussellando. Dovete sapere che in realtà qualcuno ha rubato il mio cuscino e io ho praticamente questa abitudine di poter parlare meglio al microfono grazie al cuscino, poiché sono reduce tra l'altro di un torcicollo di quelli abbastanza spaventosi, ahimè, non me ne vogliate se questa sera la mia voce insomma sale, scende, insomma col torcicollo, senza nemmeno il cuscino, ed eccoci qui a Brussellando. E voi penserete, come mai, che ci fa martedì Brussellando alle 19 di martedì? Ebbene, effettivamente vari sono gli impegni che ci vedono insomma protagonisti in queste sere, e quindi abbiamo deciso di anticipare di un'ora, anzi di due ore, il nostro programma. Ovviamente dopo di noi ci sarà normalmente Stefano col suo jazz e dintorni, ma poiché ci teniamo tanto a questo nostro progetto radiofonico e poiché sono tanti gli eventi che arricchiscono l'agenda culturale di Bruxelles, e poiché Brussellando vuole essere presente in tutto insomma questo, diciamo, queste serate, questa sera ci troviamo quindi un attimo in anticipo rispetto alla scaletta abituale, ma non cambia nulla, ci sarà come al solito l'abituale azienda, ci sarà di che chiacchierare, discutere e convenire con la nostra Imola, che ci raggiungerà nei nostri studi quanto prima. Insomma, il traffico brussellese, soprattutto tra le 18 e le 19, è ahimè tremendo. Salutiamo invece George, impegnato in un training già da stamattina e da tutto il giorno, quindi non riusciremo ad averlo qui con noi questa sera. Caro Giorgio, ovviamente ci mancherai, ma per la settimana prossima, così come abbiamo già ormai cominciato da una settimana, ci ritroveremo ai microfoni di Brussellando. Ebbene, eccoci qui. La settimana scorsa avevamo chiuso la nostra puntata sull'ottavo Festival Internazionale del Film Archeologico di Bruxelles, che come tutti quanti ricorderete comincia il prossimo 5 novembre con un seminario, per poi proseguire per tre giorni, il 6, il 7, l'8 novembre, con l'abituale festival. Tutto ciò avrà luogo al Museo Reali di Arte e di Storia, ubicato sito al Parco del Cinquantenario di Bruxelles. Per quanti volesse avere più informazione, vi suggeriamo il link del sito internet al quale potrete avere più informazioni: www.kineon.be. Cosa c'è in programma? Innanzitutto, il venerdì 6 novembre alle ore 14 ci sarà per l'appunto un seminario, che è praticamente l'unico momento in cui è prevista una partecipazione alle spese di circa 25 euro. E durante il seminario ci sarà la possibilità di poter assistere alla proiezione di una serie di sedute estrapolate direttamente dal catalogo del Festival del Film Archeologico. Invece venerdì in tarda serata, intorno alle 20, ci sarà la serata di apertura, con ovviamente l'apertura ufficiale e la presentazione della giuria. Alle 21.40 ci sarà la pausa e poi la serata continuerà. Invece sabato 7 novembre, cominciando presto al primo mattino alle 10, ci saranno diverse proiezioni, tra cui Storia del vino nell'Italia antica. E beh, sono tante le tradizioni che si narrano proprio su questa tradizione, che in Italia in realtà risale nella notte dei tempi. Pensate che già Plinio il Vecchio citava dei vini, tra cui uno a me molto caro, date le mie origini campane, il Falerno, che oggi è in realtà un ceppo molto raro, chissà se si riesca ancora a conservare. Per quanti di voi si recassero in terra campana e avessero la possibilità di degustarlo, ve lo consiglio calorosamente. Per continuare, 19h. Per continuare invece per quelle che sono le attività previste dal Film Festival Archeologico, alle 14 invece si continua ovviamente a parlare di mistero, si continua a parlare di un'età, quella greca, che tanto ha contribuito alla ricchezza culturale, artistica, letteraria del nostro presente, a questa lingua, quella greca, che continua ancora a condire tante delle parole di cui oggi noi ci serviamo abitualmente. Ovviamente se Giorgio fosse stato qui con noi avremmo avuto la possibilità anche di approfondire l'importante eredità linguistica che oggi noi dobbiamo a quella straordinaria civiltà della famosissima e intramontabile Magna Grecia. Per quanti volessero ancora riviverne in realtà momenti preziosi, tracce di vite, tracce di umanità, incontro con Shazin, quindi al Film Festival Archeologico di Bruxelles. Ed infine la terza serata, domenica, quindi dalle 14, l'arte breve, il chirurgo di Rimini, Anchetto au pays des morts, Das Rätsel der Mannheimer Mumien. Infine la pausa e quindi poi la serata ovviamente di chiusura. Questo per ricordarvi il Film Festival Internazionale del Film Archeologico di Bruxelles dal 5 e fino all'8 novembre, dove? Ai Musei Reali di Arte e di Storia presso il Parco del Cinquantenario di Bruxelles, www.kineon.be. Per tornare invece ad eventi un po' leggermente meno seri, di sicuro più facile accesso, destinati in effetti poi a tutti, che ne pensate? Dopo magari una dura giornata di lavoro come questo mese di ottobre, che pare effettivamente concentrare una mole di lavoro, non so voi, ma qui noi dalle nostre parti siamo effettivamente uberati. Da domani si apre l'Oktoberfest, la festa della birra, che come tutti voi sapete è organizzata dalla rappresentanza della Baviera presso l'Unione Europea e che sarà organizzata nuovamente quest'anno alla Place Jourdain. Quindi come d'abitudine ovviamente ci descriverà quelle che sono le birre più famose, le birre diciamo di Monaco, e le birre più famose bevute per l'occasione, l'Oktoberfest di Monaco. Immaginate che è stato costruito, così come d'abitudine, un grande chapiteau di più di 1500 posti, e ovviamente si potrà ascoltare anche della musica tipica. Quindi per tutti coloro i quali amano la birra, per tutti coloro i quali non conoscessero ancora le birre tedesche, per tutti coloro i quali vogliono trascorrere una piacevole e serena serata insieme, a partire da domani sera alle 17 fino alle 23, mercoledì, venerdì, e sabato e domenica nel weekend dalle 11 del mattino alle 23, tutti siete invitati alla Place Jourdain per partecipare a quella che è l'Oktoberfest. Per quanti invece volessero avere più informazioni, vi invitiamo a scrivere a bayern.buero@stk.bayern.de. E ovviamente buone serate e buone bevute a tutti, e mi raccomando, ci vuole sempre un po' di controllo, e se volete esagerare allora siate in due, così nel ricondurvi a casa non ci sarà nessun inconveniente per il traffico. Ne avevamo già parlato la settimana scorsa, vale la pena ricordarlo perché sarà sicuramente uno degli eventi dei quali noi parleremo molto spesso, è Europalia. Europalia quest'anno, dopo aver dedicato tanto spazio l'anno scorso alla Corea, quest'anno avrà come ospite d'onore la Cina. Immaginate che una maison du thé, quindi una casa del tè, sarà creata al Monte delle Arti al fine di far scoprire la cultura cinese al cuore di Bruxelles. La superba costruzione Dynasty, eccezionalmente aperta al pubblico, ospiterà tutti coloro i quali vorranno saperne di più di questa ambiance, atmosfera rigorosamente cinese, che riesce ancora a far incontrare, a sposare quelli che sono gli elementi del design tradizionale con quelli contemporanei. La Maison del Tè sarà un luogo di incontro, ma anche di riscoperta, dove l'arte del tè e la gastronomia cinese potranno esprimere il meglio delle loro potenzialità. Si potrà quindi assistere ad una degustazione di tè, gustare delle specialità cinesi originali, e così si potrà distendere semplicemente con una bruyante tasse de tè e ovviamente qualche dim sum alla uscita di un Expo. Un programma di attività ovviamente di tutti i tipi ed interamente gratuiti sarà organizzata per circa 5 mesi: cerimonie del tè, corse di tai chi, danza del leone, atelier di calligrafia, concerti, dimostrazioni di artigianato e ovviamente mostre sulla fotografia e tanto ben altro. Ovviamente la Maison del Tè accoglierà infine il centro di informazione del festival Europalia.cina. Per quanti volessero saperne di più, www.europalia.e teahouse. L'indirizzo: Maison de Thé Europalia.cina, Mont des Arts, en face de la place de l'Albertina, 1000 Bruxelles. Avrai ragione te a fare come fai, a stare con chi vince, cambiarti le camicie, ma sa vedere che noi sappiamo già com'è, ci riposiamo solo dopo Marti. Ci eravamo lasciati su un ovviamente sull'Europalia. È venuta finalmente, così mi sento meno sola, la nostra Fiordaliso. Ciao. Siamo effettivamente, quando si ha un'equipe poi tutto sommato in cui si è instaurato un certo feeling, come quello con George, quello con Dani Regia, quello con Fiordaliso, quando uno ovviamente di loro non è qui in studio, tutto sommato ne sentiamo la mancanza. George, mi raccomando, questi training facciamoli finire un po' prima, così ecco, potrei essere dei nostri più spesso. Quindi parlavamo dell'Europalia. Allora, proprio nell'occasione dell'Europalia ovviamente non c'è soltanto gastronomia, non c'è soltanto tè, non c'è soltanto la riscoperta di quella che è la grafia cinese, ma anche altro, tra cui una straordinaria esposizione di arte e di storia che sarà dedicata al figlio del cielo. Pensate, il figlio del cielo nella tradizione cinese era colui che in realtà appare quando il mondo nasce. Il mondo nasce dalla separazione della terra e del cielo. Tra i due, quindi tra questi due emisferi in un certo senso che vengono a costituirsi, apparve, secondo la tradizione cinese, il figlio del cielo, un sovrano che ha ricevuto il suo mandato dal cielo al fine di poter garantire e mantenere l'armonia nell'universo. Il suo viso ovviamente cambia, il suo ruolo resta però e si amplifica a seconda di quelle che sono le generazioni e le dinastie che via via nel tempo si succedono. Dalle prime apparizioni neolitiche di circa 3500 anni fa alle ultime, quelle risalenti agli imperatori, però si dica King 1644-1912, tutti coloro i quali parteciperanno a questa straordinaria ed avvincente mostra potranno effettivamente ripercorrere le tappe più importanti di questi riti magici che nella notte dei tempi diventano sempre più complessi fino a divenire un rituale quasi rigoroso e speciale che deve manifestarsi nel tempo. Pensate che l'astronomia moderna, che è stata poi effettivamente riscoperta dai gesuiti nel XVII secolo, probabilmente prese spunto proprio dal figlio del cielo. Immaginate che il culto addirittura può essere riconducibile a 5.000 anni fa, quindi sono tantissimi gli oggetti, le forme che via via nel tempo sono state ovviamente edificate proprio in onore di questa divinità. E pensate, immaginate, direttamente dalla Cina e da 6 province differenti, a Bruxelles sono state raccolte approssimativamente 250 opere d'arte. Quindi è davvero una mostra straordinaria che noi di Bruxellano sicuramente andremo a visitare, prima di tutto perché è cominciata qualche giorno fa, il 10 ottobre, e si concluderà il prossimo 24 gennaio 2010. C'è la notturna al giovedì fino alle 21 e i prezzi sembrano effettivamente essere davvero alla portata di tutti, da un minimo di 3 euro ad un massimo di 10 euro per ammirare delle bellezze effettivamente rare. Penso che sfido magari anche qualche cinese, qualche ascoltatore che ne sappia di raccontarci qualcosina in più, perché per noi di Bruxellando è stata una piacevole scoperta. Quindi ricordiamo ancora Europalia Cina, il figlio del cielo, dallo scorso 10 ottobre fino al prossimo 24 gennaio, tutti i giorni dalle 10 alle 18 e giovedì con la notturna fino alle 21, dove al Palais des Beaux-Arts, alla Rue Ravenstein 23, ovviamente al centro di Bruxelles. Standing in line to see the show tonight, and there's a light on, heavy glow. Waiting for Danny the girl is singing songs to me beneath. E rieccoci nuovamente qui. Questa sera, cari amiche, cari amici, noi pensavamo di potervi fare un gran bel regalo. E questo era anche uno dei motivi per i quali alla fine ci siamo detti andiamo in onda, andiamo in diretta alle 19 e non alle 21, pur sapendo che effettivamente il nostro orario abituale è quello delle 21. Ieri sera abbiamo incontrato, in un'occasione di una serata di presentazione organizzata dalla Consulta degli Emiliani Romagnoli nel Mondo e l'Associazione Emilia Romagna di Bruxelles, serata organizzata però presso la rappresentanza dell'Emilia Romagna a Bruxelles, Giorgio Comaschi. Giorgio Comaschi, come tutti voi sapete, insomma, è un volto celebre del calcio. Lui è stato e ha lavorato per tanti anni per il Corriere dello Sport Stadio, poi per la Repubblica. E quando poi divenne freelance, cominciò ovviamente a collaborare a diverse testate, a diversi quotidiani, occupandosi anche di spettacolo, sport e costume. Nel 1993 ha vinto il premio Beppe Viola per il giornalismo sportivo. Ha esordito quindi in televisione su Telemonte Carlo, conducendo che parola difficile! Con il mitico José Altafine. Mio Dio, gioco di parole, insomma, ci siamo capiti. Galagol dal 93 al 95. Sempre in ambito sportivo, è stato inviato da quelli che è il calcio e conduttore del programma radiofonico Quelli che è la radio. Ancora per la televisione ha collaborato a programmi di intrattenimento come inviato di Raffaella Carrà in Carramba che sorpresa e come spalla di Milly Carlucci nella conduzione della Festa della Mamma. E salutiamo magari tutte le mamme in ascolto. Ha partecipato inoltre a Velisti per caso, conducendo il programma per due mesi in sostituzione di Patrizio Roversi e Susi Bledi. Da segnalare infine la sua collaborazione allo Zecchino d'Oro come autore e conduttore, nonché come interprete del personaggio del Mago Zurloff, parodia del celebre Mago Zurlì, nel programma La Banda dello Zecchino. Ha scritto infine insieme ad altri autori la canzone Il Trenino dello Zecchino. Dal 1997 al 2000, forse qualcuno di voi lo ricorderà ancora, condusse insieme a Cloris Brosca buona parte delle puntate del gioco quiz televisivo La Zingara, programma itinerante trasmesso ogni giorno su Rai 1 in fascia preserale. Invece poi da qualche anno, e cioè dal 2004, Giorgio ha portato in scena Commendator Paradiso, su un testo scritto da Gianfranco Civolani dedicato a Renato Dallara, sotto la cui presidenza il Bologna vinse il suo primo e unico scudetto. O sbaglio? L'ultimo. Lo sapevo io. Il Bologna vinse 8 scudetti. Il Bologna ha vinto 8 scudetti? Ma non se lo ricorda più nessuno, mio Dio, 8 scudetti! E tra l'altro il Bologna ha celebrato il suo 100° anno di attività, quindi su 100 anni, sì, 8 scudetti. Perdendo 3-1 col Genoa. Considerando che il Napoli è stato fondato nel 1926, beh, c'è ancora speranza, bene. E allora dal 2005 invece replica Delitto a teatro, dove interpreta il commissario Maigret, chiara parodia del più noto commissario Maigret, ovviamente, ma quando lo vedete scritto potete anche capire la differenza tra il commissario Maigret e il commissario Maigret. E tra l'altro Giorgio ieri sera ci accennava che proprio questa parodia del commissario Maigret sarà trasmessa a New York per un mese dal prossimo martedì. Noi speravamo di averlo al telefono questa sera, ma questa sera invece è impegnato in un altro spettacolo, quello della radio. Pensate, quello della radio chi è? È uno spettacolo che Comaschi ha ideato con la scenografia di Matteo Soltanto, soltanto Matteo, che volete da me, in cui si raccontano i punti essenziali della vita, nonché delle scoperte di Marconi, con uno stile fra il racconto giornalistico e le suggestioni teatrali. Il lungo racconto, recitato da Comaschi col supporto di Alessandro Pilloni, è arricchito in modo suggestivo dalla produzione di documenti, immagini e filmati tratti dall'archivio della Fondazione Marconi di Pontecchio. Ovviamente sul palco, quanti di voi questa sera saranno lì, e noi auguriamo e speriamo che siate in tanti, si possono vedere e ascoltare, con la collaborazione di Maurizio Bigazzi, tecnico della stessa fondazione, alcuni effetti, strumenti relativi alle sue invenzioni. Ovviamente noi auguriamo veramente all the best, lots more a Giorgio. Speravamo di averlo al telefono, ma immaginiamo, insomma, che organizzare uno spettacolo, soprattutto negli ultimi minuti, richieda ovviamente tanta attenzione. E speriamo di averti però quanto prima al telefono, e cogliamo l'occasione anche per salutare l'Istituto Italiano di Cultura, che permette comunque a tutti noi di poter usufruire di spettacoli di rara e bella qualità. Dai, Mardì, comunque non abbiamo avuto Giorgio Comaschi in linea, però siccome lui stasera fa uno spettacolo sulla radio, noi siamo alla radio, siamo sulla stessa sintonia d'onda. Beh, quelli della radio in realtà poi si... Beh, tra di noi più o meno, insomma, ci si capisce, o almeno questo si spera, io me lo auguro, ma ormai di questi tempi non ne sarei più nemmeno tanto sicura. Invece, per tornare ad altri eventi davvero straordinari, vorrei ricordare Expo Italia. Noi ne avevamo già parlato lo scorso anno, è un momento molto importante anche di ritrovo su quelle che sono le mode, le tendenze del Made in Italy. Made in Italy che, per fortuna, nonostante la crisi, nonostante il savoir-faire degli italiani, la creatività degli italiani, la genialità degli italiani, credo si esprima soprattutto in momenti difficili come quest'ultimo biennio, che purtroppo ci vede, insomma, in un momento difficile da tutti i punti di vista. Ebbene, il segnale che Expo Italia già da qualche anno ovviamente vuole lasciare a tutti è che comunque in un modo o in un altro bisogna rimboccarsi le maniche e proseguire e continuare. Per tutti coloro i quali volessero ovviamente partecipare, la manifestazione è già stata inaugurata la settimana scorsa dal governatore della Regione Calabria. Il governatore era qui in quanto la Regione Calabria è proprio l'ospite d'onore di tutta quanta la manifestazione, quindi per gli amanti di questa straordinaria regione, che tanto ha da offrire da un punto di vista gastronomico, da un punto di vista culturale e da un punto di vista storico. Ritornano poi i discorsi che facevamo prima sull'antica Grecia, gli splendidi, straordinari bronzi di Riace, per esempio, ma non solo quelli. Potranno ovviamente ammirare tutto il meglio che questa regione ha da offrire. Quando? Dal prossimo 15 ottobre, con un'inaugurazione prevista alle ore 18 e fino alle 22, quindi giovedì, dopo domani, e proseguirà fino al prossimo 18 ottobre, quindi fino a domenica. Nei giorni ovviamente del venerdì, sabato e domenica l'esposizione sarà accessibile anche in mattinata dalle 10 alle 20. Tutto ciò avrà luogo al Palais de Duper, l'esposizione di Bruxelles alle Iselle. Quindi noi ringraziamo tutti quanti gli organizzatori di Expo Italia e invitiamo tutti i nostri fedeli ascoltatori a partecipare. Questo è il prezzo che questo mondo impone a noi, di vivere senza certezza alcuna, in vele con il flu. Disperati amanti che non hanno mai trovato amore puro, piegati alle regole del buon mercato, mi pento e mi dolgo per questo peccato, ma quando respiro mi accorgo che esisto davvero. Restiamo isolati in cerca di gloria, mediocri e muti e senza memoria, ma quando l'estate è tornata, speranza c'è ancora. E vivi davvero. Ebbene sì, ecco la straordinaria Giorgia, la grinta musicale di quest'artista sempreverde che riesce ancora a regalare delle emozioni straordinarie. Insomma, noi speriamo di poter riascoltare nuove canzoni di questa, che è una delle cantanti più innovative, ovviamente dinamiche, del del panorama italiano. Per ritornare invece a questi eventi, insomma, culinari che tanto ci piacciono qui a Bruxelles, ricordiamo un altro di quegli eventi che pure riesce ad attirare l'attenzione ogni anno: il Salone dell'Alimentazione, che ovviamente potrebbe anche essere inteso come un momento molto importante di riequilibrio tra il corpo e lo spirito, anche perché magari la qualità della vita comincia proprio dal mangiar bene. Quindi mangiar bene credo possa senza alcun dubbio affermarsi come uno dei, magari l'undicesimo comandamento, comunque come un punto importante nella vita quotidiana. L'edizione 2009 del Salone dell'Alimentazione, il Salone del Food e Feel Good, resta fedele quindi a quella che è la sua nuova linea direttrice. Visitare il salone ovviamente non è soltanto la scoperta di nuovi gusti, di nuovi sapori, di nuove idee, insomma, che si possono poi ripetere facilmente anche a casa o apprezzare magari in giro a Bruxelles. Si può ovviamente chiedere qualcosa in più, quindi si possono spegnere per esempio 80 candeline nel Salone dell'Alimentazione, perché questo salone compie 80 anni, nessuno mai l'avrebbe detto, nemmeno la sottoscritta. E pensate che sono tantissimi i visitatori che ogni anno vi si recano, quindi credo che quest'anno poi sia effettivamente ancora un'occasione più importante, proprio perché ci sarà modo di poter scoprire nuovi trucchi, nuove astuzie in materia di moda, del benessere e anche delle cure personali. Ci sono 350 exposants, immaginate, quindi ci sarà modo di poter soddisfare anche i ricercatori più fini e più sensibili a quelle che sono le nuove tendenze in atto nell'alimentazione e non solo. Tutto questo ovviamente avrà luogo al Bruxelles Expo, l'Esel Place de Belgique 1020 a Laeken. Pensate, 8 euro per adulto, ma io sono sicura che su qualche autobus c'è anche la possibilità di avere una riduzione, quindi il biglietto passa a 4 euro e pensate che se andate in gruppo minimo di 10 persone il biglietto in ogni caso è di 4 euro, invece per i minori inferiori ai 12 anni l'ingresso è gratuito. Tutto questo dalle 10 alle 18, la manifestazione è già cominciata lo scorso 3 ottobre e finirà il prossimo 18 ottobre, quindi c'è ancora spazio e tempo per qualche giorno di sana alimentazione, quindi noi invitiamo tutti a partecipare al Salone dell'Alimentazione. E allora, siccome io non ce la faccio più, devo confessarlo, perché qui non mi possono far sempre lavorare, ma com'è sta cosa, Imola? Io non lo so. Ti andrebbe di anticipare un po' lo spazio dell'angolo del libro? Io faccio anche la sigla, eh? Fai la sigla, me lo prometti? Librangolo. Questa è proprio una sigla estesa, grazie. Ma sai, effettivamente volevo regalarti una sigla che fosse un po' un attimo originale e diversa dal solito, perché sono da sola, ecco. Ringrazio, ma non piangere, non sei da sola, ci siamo anche noi. Ma voi non siete Giorgetta. Sì, infatti, cioè, non mi posso trasformare, mi dispiace tanto, però... Però devo cioè sono la fiordaliso di sempre, quindi io mi concentro sui libri. Bene, così dai che riprendo il buon umore. Ecco, speriamo. Ma infatti ci hai azzeccato con quale evento dire per l'ultima volta, perché infatti con questi tempi invernali pensavo di concentrarmi su letture culinarie che, ma dai, in un certo senso ci riscaldano lo spirito. Hai ragione. E specialmente che adesso ci stiamo affrontando l'inverno e che appaiono delle verdure stranissime sul mercato, magari gettiamo un attimino uno sguardo in cosa ci offre la letteratura attorno al cibo. Bene, bene, io sono tutti orecchi, prenderò anche nota. Fai. Cioè, scrivo, già sono pronta. Se già sei pronta, il commissario Montalbano, ovviamente non possiamo non menzionarlo, già che sono diventata una fan. Ovviamente toccherà convertirmi anche a me. Tutte quelle bellissime cose, diciamo, menzionate in questi libri sono proprio ci lasciano con l'acquolino alla bocca. Cioè, il commissario è un vero gourmand, si deve sapere, che non parla mentre mangia per non distrarsi e non rovinare le sensazioni provocati dai sensi, no? Ed è ovviamente il che sceglie dei posti per mangiare che valgono la pena di visitare. Purtroppo questi non esistono per davvero, però comunque possiamo sempre sognare con lui. Ma siccome già l'altra settimana abbiamo esplorato il tema del commissario Montalbano, io passo ad un altro classico della letteratura culinaria, che è Joanne Harris. Cioè, ovviamente tutti conosciamo Chocolat. Cioè la storia di Vianne, che è un'esperta nella preparazione di cioccolata, che arriva in un paesino francese molto tradizionalista e cerca di rompere alcune tradizioni con le sue innovazioni culinarie. Non so, cioè, a George non piace il cioccolato, però a noi penso che ci piaccia, quindi... Tu quale preferisci, quello latte o quello fondente? Latte. Va bene. Così non litigheremo mai, io quello fondente. Ecco, ma purtroppo siamo molto simplistici, semplici, diciamo. Semplici, perché, per esempio, se leggete il libro, cioè non vi è venuto la curiosità di provare la cioccolata calda con il chili? Se sembra una cosa stranissima, deve avere... Il peperoncino, vuoi dire? Il peperoncino, sì. Ah, in effetti qui a Bruxelles si trova, però infatti, le barrette con il peperoncino. Ah, io preferisco la cioccolata con gli arance. Sicuramente anche quello c'era nell'offerta. Però quella col piccante no, perché non mi fa male. La mamma mi dice sempre non posso. Non te lo diamo, tanto nel libro vi andrei a... A me invece piace l'ovetto Kinder. Mamma mia, Dio santo, dove siamo arrivati? Perché c'è la sorpresa. Quindi questo non è la fine, non è il cioccolato, però saremmo un po' limitativi se ci concentrassimo soltanto sull'opera Chocolat di Joanne Harris, perché infatti c'è addirittura una trilogia culinaria. Ho letto una di questi libri che si chiama 5 quarti d'arancia. Hai visto che l'arancia c'è da qualche parte? Sì che c'è! Dai! Infatti l'eroe di questo libro è Framboise, cioè il nome è indicativo, una vecchia proprietaria di una creperie di provincia, di nuovo in Francia, e che prepara delle crepe in base a ricette segrete della famiglia. Però a queste ricette non è semplicemente legata una storia esclusivamente culinaria, ovviamente c'è un dramma di sotto, un segreto che Framboise cerca di scoprire e che ha a che fare anche con la sua infanzia durante la Seconda Guerra Mondiale e il suo coinvolgimento con un soldato tedesco da bambina. Cioè, ovviamente non immaginatevi delle cose losche, si tratta comunque di eventi drammatici, e vi invito di scoprire questo lato del libro. Dal punto di vista culinario invece, cioè, il libro proprio si incontrano delle ricette con dei profumi molto ricchi, molto strani, e il linguaggio della scrittrice quando scrive di cibo è poetico, è un po' psicologico, diciamo, è molto strano ma anche bello. Cioè, per esempio, descrive i passi per preparare un liquore di ciliegie, concludendo che nel giro di 3 anni l'alcol dissangua le ciliegie fino a diventare bianche, mentre il liquore diventa color rosso profondo, penetra fino al nocciolo e la piccola mandorla nel suo interno, diventando pungente, evocativo del profumo di autunni passati. Poi ci consiglia di giocare con il nocciolo nella bocca come con una perla di un rosario. Cercate di ricordare il tempo della sua maturazione, quell'estate, quell'autunno caldo, quella volta quando il pozzo si era seccato, la volta in cui avevamo Vespai, un tempo passato, perduto, è ritrovato nel pezzo duro dentro il cuore del frutto. È bello, no? Mio Dio, che bello! Ecco. Tra l'altro il moscerì è effettivamente molto buono. Ma, e poi tra l'altro, io so che in Portogallo fanno un liquore alle ciliegie spettacolo. spettacolo. La Gingia è uno spettacolo. Da provare. Sherry. Da cioè, provare. Per ragazzi, la prossima volta ci presenteremo noi con delle poesie su sulle nostre. Ma io proporrei addirittura la prossima volta facciamo una trasmissione, durante la trasmissione avremo un mini bar, una specie di self service e vedremo che effetto fa. Per vedere tutti quanti l'effetto che fa. Non dovevo Bevo venire io. Senza cioccolato stasera, cioè, no, già vedo no. Che no. Cioè, proprio ho scelto un tema brutto da questo punto di vista, perché non ho portato un intero carretto di cioccolato belga. Beh, pensiamoci per la prossima volta. Però continua il filone. Bene. Perché ovviamente non possiamo creare un tale elenco senza la partecipazione di Laura Esquivel con il suo libro intitolato Come acqua per il cioccolato. La protagonista Tita è creatrice di ricette fantasiose che esprime e trasferisce le sue emozioni sui membri della sua famiglia attraverso i piatti che prepara. Già dalla sua nascita è legata alla cucina e al cibo. Questa parte ve lo leggo. La cipolla deve essere tritata fine. Suggerisco di mettersene un pezzetto in testa per evitare la fastidiosa lacrimazione che si produce quando se la si taglia. Il brutto di piangere tritando la cipolla non è semplice fatto di piangere, ma è che quando cominci poi ti bruciano gli occhi e non smetti più. Non so se è già capitato anche a voi, ma a me certamente sì, un'infinità di volte. La mamma diceva che era perché sono sensibile alla cipolla, proprio come Tita, la mia prozia. Raccontano che Tita era così sensibile che già quando stava nella pancia della mia bisnonna, quando lei tritava cipolle, non smetteva più di piangere. Il suo pianto era così forte che Nacha, la cuoca di casa, che era mezzo sorda, lo udiva senza sforzo. Un giorno i singhiozzi furono talmente forti da anticipare il parto e senza che la mia bisnonna potesse dire bah, Tita venne al mondo prematuramente sul tavolo della cucina tra gli odori del minestrone che stava cuocendo, del timo, del lauro, del coriandolo, del latte bollito, dell'aglio e naturalmente della cipolla. Quindi la bimba non piangeva, oppure piangeva il doppio? Piangeva il doppio, tutta quella cipolla, povera piccola. Esatto, ma già questo brano vi dà un'idea sulla diciamo la relazione strettissima fra la cucina e i sentimenti in questo libro e anche del misterioso, del mitico che è onnipresente come anche per esempio con Gabriel García Márquez che però adesso aiutatemi un attimo, non era Gustave Flaubert che aveva parlato della Madeleine? No. Dani, ma cosa racconti? Ha detto aiutatemi, chi era quello scrittore? Ma cosa racconti, la petite Madeleine? Chi era che aveva scritto? Ma chi poteva mai essere secondo te? Qualcuno che aveva anche perso il tempo e lo cercava disperatamente. Foucault. Marcel? Mio Dio! Era Marcel? Marcel, bravo, bravo, vero. Ah, mio Dio, oh, faremo effetti, finta di... In effetti dietro quella Madeleine c'era un ricordo ben chiaro. Oh, mio Dio. Molto bello. Va bene, abbiamo capito che Daniele deve un attimo ripetere le sue nozioni letterarie. Stasera avrei bisogno di un pocket coffee per rimanere in tema. Un pocket coffee, dai, come si può? Non ce ne sono nemmeno, poi tra l'altro a Bruxelles di pocket coffee. Sono nei tutti i paesi limitrofi, ma in Belgio no. Sono stati vietati. Chissà come mai, poi qui c'è la grande specialità chiamata caffè, quindi... Continuo. Sì, scusaci su questi diverbi un po' così poco letterari. Quindi volevo passare in un altro genere, che è proprio quello dei libri di cucina, perché infatti il linguaggio personale e poetico mica è riservato soltanto alla letteratura, anzi... Cioè, oggigiorno, e come vi dirò, non soltanto oggigiorno, c'è una grande tendenza di dilegare le ricette anche a esperienze personali. Cioè, iniziando dal passato, per esempio anche il grande Pellegrino Artusi, cioè il che ha scritto la Bibbia della cucina romagnola, che Daniele sta già si sta leccando i baffi che non ha. Esattamente. E anche esso pieno di riferimenti vari, di aneddoti e di raccomandazioni di come far conoscere l'arte corretta della cucina alle donzelle. Per esempio, suggerisce anche la creazione di un istituto di cucina, e dove mai, a Bologna, naturalmente, e dove mai dopo la ricetta dei tortellini alla bolognese. Quindi alcune delle sue osservazioni fanno un po' sorridere, perché comunque le nostre nozioni sulla cucina sana sono cambiate assai nel frattempo. Per esempio, dice che gli erbaggi, purché non se ne abusi, sono un elemento di igiene nella cucina, diluiscono il sangue e, amalgamati alla carne, rendono questa meno nauseabonda. Ma il più o meno uso dei medesimi in un paese qualsiasi dipende in gran parte dal clima. Quindi il vegetarianismo è proprio sconsigliato dal punto di vista di igiene e medicina e tutto in questo libro, quindi dedicatevi alla sua esplorazione soltanto se siete proprio convinti di una cucina molto ricca di sapori e di carne. Ma anche oggigiorno devo menzionare, per esempio, Jamie Oliver, che può ringraziare il suo successo proprio al suo approccio personale un po' divertente alla cucina. Proprio la propria Joanne Harris ha scritto un libro di cucina e c'è anche un libro che si intitola Al mercato con Joanne Harris. E per esempio un libro di cucina che io uso personalmente è quello di Sophie Grigson, che si chiama Vegetable Bible, purtroppo penso che in italiano non esista. Anche lei descrive anche la storia delle verdure, le sue esperienze personali, il suo modo di collezionare le ricette, e proprio la preparazione dei piatti diventa quasi un racconto, una novella, che ancora non abbiamo mangiato, quindi quindi gli elogi mi fanno avere una fame terribile. Comunque è così, e non soltanto perché in questo momento stanno preparando la premiere di un film che si chiama Giulia e Giulia, che si basa sul libro di una ragazza degli Stati Uniti che ha deciso un certo giorno di cucinare tutte le 500 ricette di un libro di cucina francese. Ma tutti in un giorno? No, gradualmente, ovviamente, facendo tipo due ricette ogni giorno. Quindi in un anno? E praticamente l'ha fatto in un anno e su questo ha scritto un blog. Il suo blog è stato così, ha goduto di così tanto successo che alla fine è stata richiesta di scrivere un libro, di cui alla fine hanno fatto anche un film con la partecipazione di Meryl Streep. Ma infatti a me ricordava qualcosa. L'avevo letto già da qualche altra parte. È possibile. È una storia interessante. Sì, effettivamente interessante. Quindi magari ne riparleremo. Imola, a proposito di ricette, il commissario Maigret era un ghiotto amante della cucina e hanno fatto il libro delle ricette della signora Maigret. Ma guardati, questo non lo sapevo, grazie. Io comunque il Maigret lo preferisco col miele. Maigret de canard. Sì, il Maigret io solo col miele, altrimenti niente da fare. Uno che si chiama Maigret non poteva altro che parlare di cucina. Preferirei stare seduto sopra il ciglio d'un vulcano. Mi brucerei, ma salutandoti dall'alto con una canzone molto nota e famosissima in Italia di qualche tempo. Salirò, e chissà se anche noi riusciremo a salire sui vertici di quella che è la migliore delle cucine italiane. E chi lo sa, noi ce la faremo tutta, anche perché sono venute fuori già tutta una serie di idee. Qui vedevo Dani N già pronto, quasi ai fornelli, Imola, insomma, che pure diceva sì, io parteciperò. E chissà Giorgetto, perché anche lui è bravo. Giorgetto mangia. Pare timido, ma Giorgetto è bravissimo, è il nostro, insomma. Questa sera non è qui con noi. Comunque, ma sarà Doni un training o è andato alla degustazione della festa del cibo? Ma Giorgetto è terribile, è un imprevedibile fetentissimo, come dico sempre io. Andiamo invece avanti con gli eventi, perché ce ne sono ancora 5 o 6 di cui parlarvi. Prima di lasciare la parola a Stefano, non voglio sottrargli nemmeno un minuto del suo straordinario jazz e dintorni. Ma voi lo sapevate che Bruxelles nasconde ancora tutta una serie di chicche, di perle dell'archeologia? Ebbene sì, archeologia au coin de la rue, archeologia au coin de la rue, presentata quest'inverno au Salle Saint-Géry, non è ancora terminata. Quindi per quanti volessero ancora scoprire le radici passate di questa nostra capitale europea, c'è ancora tempo per poterne ancora ammirare le straordinarie ricchezze. Questo fino al 25 ottobre, da martedì a venerdì, quindi dalle 9.30 alle 17, mentre nel weekend, sabato e domenica, dalle 10 alle 17. Alla Porte d'Halle, Boulevard du Midi 1000, Bruxelles, tariffe molto modiche da 1,50 euro e fino ai 5 euro. Invece c'è un'altra grandissima iniziativa che si chiama il Teatro Lirico Italiano. Pensate, il Teatro Lirico Italiano al Teatro La Vaudeville a Bruxelles, e praticamente il Vaudeville è una piccola e meravigliosa scoperta di teatro all'italiana. Pensate, questo teatro fu costruito nel XIX secolo ed è stato totalmente restaurato, pardon, a volte i francesismi hanno la meglio, e ha soltanto 300 posti a sedere, che significa che la qualità visiva ed acustica è ovviamente eccezionale. Questo è un teatro privato che normalmente non è accessibile, eccetto per questi momenti straordinari che sono dedicati alla Ida, al Rigoletto, il Nabucco, il Trovatore, la Traviata, Don Pasquale, il Barbiere di Siviglia, la Norma. Opere italiane che ovviamente hanno fatto sì che i nostri autori siano ancora oggi universalmente, come piacerebbe dire a qualcuno, noti. La compagnia Teatro Lirico Italiano inoltre riesce ancora ad interpretare in maniera magistrale queste melodie immortali, che per quanti amano effettivamente la musica classica sarà un vero e immenso piacere di scoprire. Baritoni, soprani, tenori provengono da quelle che sono le meraviglie più appassionanti del nostro miglior repertorio lirico italiano. Questo avrà luogo è iniziato proprio l'11 ottobre fino al 26 ottobre presso il Teatro de Vaudeville presso la Galleria della Regina numero 13 1000 Bruxelles. Inoltre ascoltate, non andate via, non fate come Giorgetto, aspettateci sotto la Galleria della Reine, quindi della Regina. Sono stati praticamente trasformati i sotterranei in un percorso spettacolo nel quale tutta la storia di Bruxelles è raccontata, Bruxelles en scène. Quindi come Alice nel Paese delle Meraviglie, anche voi curiosi ascoltatori, amici di Bruxellando e di Radio Alma, potrete ritrovare i magici sapori, gli odori, le immagini e i suoni di Bruxelles. Quindi ci sono le messe in scena poetiche che evocano le differenti sfumature di questa straordinaria città nella quale oggi noi tutti viviamo, e cioè Bruxelles. Creazioni originali, oggetti simbolici, opere d'arte saranno effettivamente straordinariamente ritrovate e riscoperte da quanti avranno il piacere e la voglia di andare presso il Teatro de Vaudeville alla Galerie de la Reine 13.000 Bruxelles. E non abbiamo finito qui, perché l'agenda lo sapevamo, è mese di ottobre, l'autunno, siamo rientrati dalle vacanze, tutti volenterosi ancora di non abbandonare il ritmo estivo. E c'è ancora un altro bellissimo evento, Buglione nel Paese dei Re. Le magie di Oriente, i profumi dell'Emilia una notte, il circo di Buglione permetterà a tutti quanti delle serate eccezionali di anteprima su quello che sarà il nuovo tema, che è per l'appunto Buglione nel Paese dei Re. È uno spettacolo in cui i decori sono stati tutti ispirati a quelle che sono le magie dell'India eterna, quella degli elefanti, quella dei palazzi dei Maharaja. Quindi buglione.be è il sito internet, l'indirizzo è Circo di Buglione, Atomium, Avenue du Grotilei, 1000 Bruxelles, e la tariffa è a partire da 27 euro. Ovviamente sul sito si possono scoprire anche quelli che sono gli orari di apertura. Ovviamente Per poter acquistare il biglietto già sarà possibile farlo dalle 11 del mattino. Tutto questo avrà luogo fino al prossimo 6 dicembre. Udite udite, per quanti acquisteranno i biglietti attraverso il sito kefair.be, un terzo posto è offerto all'acquisto di due biglietti. Un altro evento pure che sta per terminare, perché avrà luogo fino al prossimo 18 ottobre, quindi fino a domenica. Quanti sono in realtà gli eventi ai quali potremo partecipare? Le Nouvelle Aventures di Guignol per le Petit Théâtre d'Aquitaine. Guignol, che ovviamente è la marionetta più antica e forse quella più universalmente conosciuta e nota delle marionette francesi, di cui sicuramente la nostra amica Liliana Ugolini potrebbe tanto raccontarci, approfittiamo per salutare anche Liliana, continua ancora a raccontarsi e a raccontare tante belle storie ai piccoli e ai grandi. E la storia comincia quando Monsieur le Marquis racconta ad un gendarme, ad un poliziotto, che è disperato perché all'interno del suo castello c'è un fantasma. Questo fantasma ovviamente va scoperto in maniera tale che si possa finalmente trovare una soluzione. Riusciranno i nostri eroi a sbarazzarsi del fantasma? Ebbene, con questa domanda noi vi salutiamo. No, non è vero, non ci salutiamo ancora, ma ci ritroveremo tutti a Plaza Albera, Chaussée d'Alsemer 1190 a Forè, per la modica cifra di 6 euro. Apertura martedì e venerdì alle 17, mercoledì e sabato alle 14 e alle 16, tutte le domeniche invece alle 11, alle 14 e alle 16. Infine ricordiamo anche un altro evento di cui avevamo già parlato qualche giorno fa, quindi cioè martedì scorso, che si ricorda il mese della solidarietà internazionale per tutti quanti coloro che lavorano nella cooperazione e lo sviluppo, che hanno fatto della cooperazione ovviamente una ragione di vita. Questo è un momento effettivamente molto importante. Sono state tante le conferenze, i film, le attività in questi giorni sul tema, e vogliamo ricordare che invece venerdì 16 ottobre un concerto speciale sarà interamente dedicato alla solidarietà internazionale e che avrà luogo al Circolo Reale. Per maggiori informazioni, Cellule Solidarité Internationale 02279 2112, e il sito internet brucity.be. Eh sì, siamo quasi ormai arrivati agli sgoccioli, perché due eventi ne possiamo parlare anche la settimana prossima, perché terminano più in là. Io volevo ringraziare tutti, come al solito, tutti i nostri ascoltatori, tutti coloro i quali continuano ancora a scriverci a brussellando@gmail.com. Effettivamente, scusateci se ancora alcuni di voi non hanno ricevuto risposta, vi prometto che la riceverete quanto prima. Insomma, tutti quanti riuscirete ad avere uno spazio qui a Brussellando. Come già avevamo annunciato la settimana scorsa, saranno introdotte delle piccole novità. Non volevamo introdurre le novità così tout court in questa nuova edizione, quindi a mano, già a partire da martedì prossimo, abbiamo delle novità che caratterizzeranno il palinsesto di Brussellando. Ovviamente l'agenda resterà il nostro perno principale, ci piace raccontare degli eventi. Ringrazio anche quanti invece non ci scrivono solo per raccontarsi e raccontarci delle loro attività, ma invece ci chiedono degli eventi, e di tanto in tanto, quando poi non parlo di un evento in radio, mi rimproverano, mi dicono: ma non hai parlato del mio evento. Scusatemi anche di questo. Cerchiamo ovviamente di dar la massima visibilità a quelli che sono gli eventi di tutti gli enti, di tutte le organizzazioni, di tutte le associazioni, di tutti gli artisti, di cui ovviamente la redazione di Brussellando è a conoscenza. Comunque sappiate che tutte gli eventi di origine italiana che sono o comunque hanno luogo a Bruxelles, in genere riusciamo a parlarne tranquillamente anche qui alla radio. Ovviamente non c'è soltanto l'angolo dedicato alle attività italiane, come sapete spesso riusciamo anche a parlarvi di altri eventi che sono legati a quelle che sono poi le tantissime realtà culturali di Bruxelles. E con queste ultime parole io ringrazio come sempre Fiordaliso, che stasera è stata geniale nel raccontarci e nel farci assaporare, insomma, sapori d'autunno, sapori autunnali. Grazie anche a Marie D, che ha fatto una tour de force incredibile stasera. E lo sta metterci collo. Salutiamo Giorgetto, che non era qui con noi, ma che ritroveremo in super grande forma martedì prossimo. Salutiamo ovviamente Dani M in regia, senza il quale Brussellando comunque non avrebbe proprio luogo. Troppo gentili. E ovviamente ringraziamo per la pazienza tutti coloro i quali ci hanno ascoltato anche in questa particolare fascia oraria, cioè dalle 19 alle 20. E ora vi lasciamo, e mi raccomando, siate ancora più numerosi all'angolo del jazz, quindi jazz e dintorni di Stefano. Buonasera a tutti e a martedì. Ciao. Avete ascoltato Brussellando, a cura della redazione culturale di Radio Alma.